11:16, iniziamo allora ad entrare nel vivo di questa puntata di Parole Ribelli. Come abbiamo annunciato poco fa, abbiamo a questi microfoni Alessandro Ferretti, ricercatore all'Università di Torino, che innanzitutto salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Ciao, grazie a voi. Ecco, con te vorremmo appunto provare un po' ad approfondire una notizia che abbiamo letto pochi giorni fa, che riguarda proprio le nostre facoltà, il nostro polo universitario, che riguarda l'approvazione di questo nuovo codice di comportamento rivolto appunto a tutti i dipendenti dell'università. Si tratta peraltro di un'approvazione che sta riguardando anche altre università italiane, in alcuni casi come a Bergamo l'approvazione è già stata conclusa. Insomma, saltano subito all'occhio, leggendo un po' il testo, che tra l'altro si può trovare online, alcune criticità, ma insomma ti lascio subito la parola per spiegarci un po' meglio di che cosa si tratta. Sì, le criticità davvero sono tante, perché, e tra l'altro riguardano appunto, come giustamente detto, non solo l'università nostra, ma anche altre università, in verità tutti i dipendenti pubblici, perché questo codice recepisce un decreto dell'anno scorso che riguarda tutti quanti i dipendenti pubblici, e ognuno poi l'ha interpretato un po' come vuole. In verità già il decreto è molto brutto, nel senso che, come vedremo, parla di una limitazione netta del diritto di espressione, delle libertà personali e del diritto d'associazione. Poi l'università evidentemente ha pensato anche di peggiorarlo un po', aggiungendoci delle cose. In pratica questo i punti più critici e più evidenti di questo decreto sono il fatto che il lavoratore deve essere obbligato a riferire al suo capo ufficio o il suo, diciamo, referente gerarchico, l'appartenenza a qualunque associazione, anche informale o segreto, qualunque cosa sia, che possa genericamente interferire con l'attività di ufficio. E c'è scritto veramente solo questo, cioè tutto ciò che può interferire con l'attività d'ufficio deve essere notificato. È ovvio che a questo punto, prima di tutto, ci si trova a dover rinunciare alla propria privacy, perché se uno vuole appartenere a un'associazione, fino a ieri era tranquillamente libero di farlo, a meno che questo non violasse la legge, chiaramente. Mentre adesso il lavoratore deve farsi il problema di provare a immaginare se in qualche modo l'attività di associazione possa mai interferire con l'attività di ufficio, e rimane su di lui a questo punto il problema di capire se lo è o no. E quindi l'articolo è formulato in maniera tale praticamente che uno, quando arriva a lavorare, deve consegnare al capo ufficio una lista di tutte le associazioni a cui partecipa, perché potenzialmente praticamente tutto può interferire. Tra l'altro anche non c'è scritto come, se interferire negativamente, positivamente, non c'è scritto niente, quindi è un po' un modo per schedare le persone in base all'appartenenza alle associazioni. Sono fatti salvi, c'è scritto, i partiti e i sindacati, ma è abbastanza evidente come in verità la vita associativa delle persone ormai si tiene molto al di fuori di queste strutture qua, certo. E quindi avrà un impatto estremamente forte. L'altro punto, che forse è ancora più evidente, che costituisce una vera e propria bavaglio, infatti i colleghi di Bergamo hanno chiamato il codice bavaglio, c'è scritto che non solo nell'attività lavorativa, ma anche in tutta la propria sfera privata, cioè anche proprio quando uno se ne sta a casa in vacanza ad agosto, quindi assolutamente lontano dall'ufficio, deve essere il lavoratore attento a non recare in nessun modo, tramite social network, tramite le sue conversazioni, tramite qualunque cosa, non deve mai recare un generico danno d'immagine all'ateneo. E anche qua è abbastanza evidente come prima di tutto ci sia un'invasione della sfera privata, perché se io nella mia sfera privata non posso neanche dire che l'Università di Torino ha magari qualche difetto, perché questo crea un danno d'immagine, vuol dire che io praticamente devo cambiare la mia vita una volta che sono un dipendente dell'Università di Torino, perché non posso neanche dire a mia madre: guarda, nell'università c'è qualcosa che non funziona. Tra l'altro, non solo, ovviamente, è chiaro che in questo modo qua qualunque cosa che non funzioni nell'università è un danno d'immagine. Ad esempio, non so, l'università mette il numero chiuso a lingue e butta fuori un sacco di studenti nella facoltà di lingue, ovviamente far notare che questa cosa qua non è assolutamente necessaria ed è una decisione autonoma di un dipartimento crea un danno d'immagine, perché fa vedere che l'Università di Torino ci sono dei dipartimenti che preferiscono mettere il numero chiuso piuttosto che cercare di allargare la sua partecipazione. Ad esempio, c'è nell'università, non si fa bene lo smaltimento dell'amianto. Se io faccio notare che c'è un problema nello smaltimento dell'amianto, evidentemente un danno d'immagine per l'ateneo, perché tutti sanno che nell'ateneo si rischia di prendersi un mesotelioma. E queste cose non sono fantascienza, purtroppo, perché è già successo in altri campi, in cui c'è, ad esempio, c'è stato il famoso caso dei due ferrovieri licenziati per danno d'immagine a Trenitalia, poi c'è stato un caso in cui una persona che lavorava in un ASL ha fatto notare, appunto, perché per l'amianto, che non era stato fatto correttamente lo smaltimento nel suo ufficio ed è stato sospeso per alcuni giorni. Quindi questa cosa qua viene anche estesa in questo momento all'università, che tra l'altro io non sono mai per far notare le cose specifiche dell'università, perché secondo me il lavoratore dell'università è uno come tutti gli altri, ma è anche evidente che l'università è un luogo in cui il sapere deve essere costantemente messo in discussione, la conoscenza dovrebbe essere il luogo regno della coscienza critica, ed è chiaro che se la coscienza critica si ferma di fronte a qualunque frase che possa inficiare in chissà quale modo l'immagine dell'ateneo, allora davvero questo è solo un grosso bagaglio. Certo, sì, poi tra l'altro insomma la questione delle dichiarazioni sui social network insomma usate poi per scopi legali è molto dibattuta ed è molto più ampia in questi anni. È chiaro che il confine insomma diventa poi molto labile tra cosa possa essere danno d'immagine e cosa no. Soprattutto mi chiedevo, ma la rilevazione di eventuali appunto violazioni di questo codice a chi saranno affidate? Ci sarà una figura in particolare? L'università queste cose fanno tutte capo al direttore generale, che è il direttore amministrativo, e non per nulla, tra l'altro, si è scoperto, almeno pare quasi certo, questa bozza di codice di comportamento per le università è stata scritta peggiorando la legge proprio dei direttori generali, che sono i manager creati dalla legge Gelmini per gestire in maniera praticamente aziendale tutto quanto il personale, con dei poteri molto più grandi dei vecchi direttori amministrativi. Quindi la cosa diventa un po' una procedura appunto non collegiale con situazioni in cui ci sono dei dibattiti su quello che è successo, ma soprattutto per i dipendenti tecnici amministrativi arriva semplicemente per catena gerarchica un provvedimento dall'alto che erroga giorni di sospensione o sospensione allo stipendio, o si può ovviamente anche arrivare al licenziamento. Certo, tra l'altro se ho capito bene questo testo appunto è già stato redatto fino al 28 febbraio, in realtà c'è solo la possibilità di insomma proporre delle modifiche, rilevare alcune criticità, dopodiché cioè, di fatto è già stato approvato, non ci saranno grandi spazi di modifica, ecco. Ad esempio a Bergamo quello che sono riusciti a fare è stato abolire tutti i punti di questo codice di comportamento che erano peggiorativi rispetto alla legge nazionale, che è già stato un buon risultato, come dire, perché evidentemente i direttori amministrativi, i direttori generali ci avevano aggiunto del loro per cercare di gestire con il massimo arbitrio il potere interno. Ovviamente anche noi proveremo a fare qualcosa del genere, magari cercando di spingerci anche un po' in là, perché adesso abbiamo programmato una riunione pubblica per giovedì che si terrà a Palazzo Novi, in una delle aulette del quarto piano, e alle 14, e questa riunione pubblica cercheremo appunto di impostare una forma di protesta che mette in chiaro che noi vogliamo una ridiscussione completa di questo codice di comportamento e magari di provare a inserire in questo codice di comportamento dei richiami alla Costituzione, perché chiaramente è evidente che una legge di questo tipo qua è incostituzionale perché limita la libertà di espressione. Noi proveremo a vedere se riusciamo a scrivere dentro questo codice di comportamento che la libertà di associazione e la libertà di espressione sono superiori e vanno tutelate anche rispetto a questo codice di comportamento. Se riusciremo a coinvolgere abbastanza persone in maniera trasversale, ovviamente, quindi non solo ricercatori, professori e tecnici amministrativi, ma forse anche gli studenti, sarà più difficile per l'amministrazione fare una cosa che veramente all'università non vuole veramente nessuno. Sì, infatti appunto volevo proprio arrivare a chiederti questo, cioè se appunto si stesse muovendo qualcosa in direzione di provare a contrastare questo codice, ma appunto hai già risposto, quindi niente, ti ringrazio, rilanciamo anche noi l'appuntamento di giovedì, ovviamente per chi viene coinvolto, insomma verrà coinvolto poi dall'approvazione di questo codice, insomma noi ti ringraziamo, speriamo ci sarà occasione ancora nelle prossime settimane di discutere di questa cosa, magari con qualche aggiornamento in positivo. Per ora appunto ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata. Grazie infinite a voi, buona giornata a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Militari e poliziotti armati con fucili e mitragliatori pattugliano costantemente la città. Ieri mattina la polizia ha fatto sapere girano in pattuglie armate per le strade, fanno strage. L'ombra della legge che li regge si compiace. Facce da spaccare, servi del padrone. Robocop da formattare, condivise da coglione. Studi notte, studi tesi del complotto. Io il sogno ricorrente di ammazzare un poliziotto. Umano B38, irrompo nel salotto dei mass media. Non ci tregua per chi può, ma non si è mosso. Credici, siamo già frenetici. Non paghiamo i debiti, assedio per l'austerity. Politici, tenetevi da parte gli antiolitici. Per poi momenti critici, assedio per l'austerity. Palazzi del potere, presidiati in abbondanza. Da birri con il casco ed una brutta faccia. Amici del magnaccia, poi cercano chi spaccia. E rovinano la gente per due canne in una tasca. Pagherete caro, pagherete tutto. Pagherete caro, pagherete tutto. Pagherete caro, pagherete tutto. Pagherete tutto, pagherete tutto. Fascisti in doppio petto, con il colletto bianco. Si mettono l'elmetto ed azzacchiano un compagno. Fascisti sbirri d'altro. Prima o poi ne uccido uno in ricordo di Carlo, di Aldo o di qualsiasi altro che ha subito la violenza della manovalanza armata della dirigenza. Fascisti e sbirri uguale, ci vediamo nelle strade. Per la parte da pistate, pietre bastonate. Polizia, carabinieri, guardia di finanza. Prima o poi qualcuno qui vi ammazza. Levatevi da muro, protettore del padrone. Siete la coscienza sporca di un imprenditore. Adesso esate e metto notte solo porta. Sognatevi le piazze che convergono le forze. Sovrastano le vostre. Se quei benestanti c'è la sollevazione, siete insignificanti. Per tutti i compagni e le compagne che ogni giorno nelle strade combattono contro la dittatura del capitale infame. 11:27 sulle libere frequenze di Radio Blackout, ci accingiamo appunto ad arrivare alla seconda tema della trasmissione di oggi, che è l'Assemblea Nazionale che si è tenuta questa domenica a Roma. Appunto il 9 marzo tutte quelle realtà, tutti quei soggetti che hanno animato la piazza del 19 ottobre, che si sono spesi nella costruzione di quel percorso, si sono, e diciamo anche chi non aveva direttamente partecipato ma ne ha riconosciuto poi la validità, si sono incontrati alla Sapienza domenica mattina. Ci siamo incontrati alla Sapienza domenica mattina con diciamo l'intenzione di porsi, di problematizzare il fatto che la data attorno a cui si intendeva costruire le scadenze di lotta della primavera è andata slittando, ovvero il vertice transnazionale per la disoccupazione giovanile. Alla luce di questo slittamento si è valutato diciamo come attraversare la primavera. Bene, l'Assemblea ha sancito con forza la necessità di continuare ad attraversare e potenziare lo spazio politico aperto dalle giornate del 18, 19 e 20 ottobre e soprattutto alla luce del fatto che la necessità e la volontà di non renderla una scadenza evento è stata praticata ben oltre la retorica, ovvero il primo dato diciamo da rilevare che tutti portavano alla luce è stato il potenziamento poi dei percorsi di lotta territoriali che si è dato nell'immediato post-19 e quindi anche la volontà di rilanciare proprio a partire dalla ricchezza dei conflitti prodotti sui territori. E qui è anche la necessità di avere un'agenda indipendente, quindi diciamo l'Assemblea si è pronunciata in maniera favorevole allo stabilire una scadenza che fosse decisa dal basso, che non stesse ad inseguire vertici o che non stesse appunto a barcamenarsi tra la costruzione di un controvertice o qualcosa che andasse semplicemente ad opporsi a una calendarizzazione imposta dall'alto. Bene, quindi appunto è uscito questo appuntamento di una manifestazione nazionale a Roma per il 12 aprile e le date che sono uscite sono tantissime. Diciamo mano a mano che procederemo con i resoconti e le dirette le daremo, poi faremo un breve excursus, una panoramica alla fine perché sono veramente tante. Bene, quindi questo 12 aprile è la data più importante uscita, un corteo che torni ad assediare i palazzi del potere come aveva fatto quello del 19, che continui a porre con forza il tema dell'uso delle risorse, chi decide sulla distribuzione di queste risorse e in base all'interesse di chi, e anche e soprattutto la tematica del reddito. Abbiamo visto che la pratica dell'occupazione, quindi la riappropriazione di un pezzo di reddito indiretto, è ormai nei territori molto diffusa e soprattutto riconosciuta anche da quelle persone che magari non vi prendono parte, non occupano direttamente. Bene, la sfida della primavera sarà anche un po' quella di spostarsi verso la riappropriazione di pezzi di reddito diretto. Quindi utenze piuttosto che utenze, spesa, insomma pezzi di reddito diretto. Quindi a questo proposito, soprattutto sulla gestione delle risorse, a Bologna avremo il 15 febbraio un convegno dal titolo Risorse e denaro pubblico, chi decide? 15 febbraio dalle 10 in via Zamboni, nella facoltà di lettere e filosofia, si vuole creare questo momento di dibattito e riflessione che però si ponga anche nell'ottica di essere poi una proposta concreta di pratiche di riappropriazione e di incisione diretta poi su quella che è la distribuzione delle risorse e del denaro pubblico. Poi andremo verso il 1 marzo, il 15 febbraio, parallelamente a Roma si svolgerà una data che tenterà di si svolgerà una giornata di lotta che si è posta l'obiettivo di arrivare a Ponte Galeria con diciamo parole d'ordine come mai più CIE. Abbiamo visto sotto Natale che il problema dei CIE ormai è diventato così insostenibile da aver catalizzato addirittura l'attenzione di Repubblica, quindi soprattutto poi in una città come Roma, in cui la componente migrante ha animato tantissimo le lotte per il diritto alla casa, ha un senso particolare andare sotto a Ponte Galeria a dichiarare dichiarare la volontà di eliminare questi lager che sono i centri di identificazione ed espulsione, ma soprattutto a rivendicare ancora una volta l'essere disposti a lottare con ogni mezzo necessario per ottenere una vita migliore. Okay, when I was about 14, right, I got one of my first jobs, and there was this lady, she had worked there a long time. She pulled me aside, she said, listen, girl, she said, whistle while you work, slow it down, girl, slow it down, son, don't go too fast, there ain't nothing to prove, young men need to learn quick. She said, take your time, it's a long-ass journey on a dusty road, eyes blurry, carry heavy loads, ration that time, give them just enough, otherwise they take you for a ride, creeping up from behind an attack, putting on your back, we serving, always selling. Never let them see your cards, never let them see you desperate. If they smell that shit, boy, they take advantage quick. Taking your whole life, so when they turn their back, take all you can get. Bumpy ride, keep it moving. We here a long time, and it's a long line, drudging on. The older that we get, we see the same. See the repetition wheel turning, grinding us up. She said, ragazzo, vai piano, tira il freno a mano. Almeno sul lavoro, pensala come un anziano. E io cospetto, riprenditi il tuo tempo. A lavoro il cambiamento, lo faccio se rallento. Ragazzo vai piano, tira il freno a mano, almeno sul lavoro pensala come un anziano, fischia un motivetto, riprenditi il tuo tempo, a lavoro il cambiamento, lo faccio se rallento. È una questione di ritmo e cassa, la produzione l'operaio massa, un lavoro che può fare anche una scimmia, catena di montaggio, trasmissione cinghia, il vecchio che ti dice, giovane vai piano, che la schiena una e il lavoro è disumano, per quanto vai veloce non puoi stare dietro al capo, è quello che fai oggi, domani è triplicato, è questo che consiste il precariato, la speranza di assunzione serve solo ad aumentare il fatturato, la chiamano la mano del mercato, è colui che non la bacia, domani è licenziato, essere accondizionato. fatturato, fatturate, fatti pezzi assicurate, buste paga leggeri che sindacato dinamite. Ragazzo vai piano, tira il freno a mano, almeno sul lavoro pensala come un anziano. Rischia un motivetto, riprenditi il tuo tempo, a lavoro il cambiamento, lo faccio se rallento. Ragazzo vai piano, tira il freno a mano, almeno sul lavoro pensala come un anziano. Rischia un motivetto, riprenditi il tuo tempo, a lavoro il cambiamento, lo faccio se rallento. Il capo se ne infischia, di chi al lavoro rischia, gli rompo anche la minchia, c'è chi al lavoro fischia. In mezzo ad una mischia, in mano uno schiavista, tra chi va in pensione e chi entra da apprendista. Come mi ha detto quel giorno un collega, lavora più piano che il capo ti frega. Passano gli anni, non cambia la scena, lui chiude in ufficio e non sempre in catena. A casa la moglie, i figli, l'affitto, la fuga e il lavoro che è solo un ricatto. Una vita buttata con l'animo affitto, poi torni a casa, arrivato lo sfratto. Forse fischietto, forse m'ammazzo, forse mi metto a cercare dell'altro. Forse m'aggrego un progetto dal basso in cui almeno capisco per cosa mi sbatto. Il soccorso invernale. Andiamo lungo, lo sai benissimo che danno il lavoro, no? Lavoro? Squagliamo, capannelle. Fatemi passare, oh! Quindi proseguiamo con questo fittissimo calendario di lotta della primavera, che provvediamo a dare tutto per poi tornare un po' al discorso più ampio che è uscito dall'assemblea in collegamento con Mattias da Roma. Dunque, eravamo arrivati a questo 15 febbraio che appunto vedrà questi due appuntamenti, il convegno a Bologna su risorse e denaro pubblico e il corteo Mai Più CIE a Roma. Poi abbiamo il 22 febbraio, ci sarà questa giornata nazionale spiegata sui territori per ribadire con forza il no all'alta velocità, ma soprattutto il no alla criminalizzazione del movimento NoTav. Ricordiamo che ci sono 4 compagni in galera con l'accusa di terrorismo che rischiano dai 10 ai 20 anni. Bene, questo tipo di, diciamo, questa è la risposta della controparte alla forza che il movimento NoTav di fatto esprime, e bisogna, diciamo, attrezzarsi per smontare questa retorica. Tra parentesi, è di ieri, nota così di ironia, è di ieri la dichiarazione di Letta riguardo alla sentenza richiesta dal governo indiano sui Marò, in cui il caro Enrico si è espresso in maniera molto forte dicendo rifiutare in toto l'accusa di terrorismo. Bene, i Marò che hanno ucciso delle persone vanno difesi dall'accusa di terrorismo, un compressore invece ha più diritto di dei pescatori indiani per il nostro caro Enrico Letta. Questo ovviamente conferma solo, non è nulla di nuovo, conferma solo quello che già sapevamo. Quindi il 22 febbraio avremo questa giornata nazionale NoTav, ci sarà una passeggiata in Clarea e iniziative su tutti i territori. Mattias poi ci aggiornerà su che cosa si farà a Roma. E andiamo diretti al 1 marzo, in cui ci sarà questa giornata di lotta a Milano, sempre per i diritti dei migranti. Poi appunto andiamo verso il 12 aprile, questa data nazionale uscita dall'Assemblea Romana, e andando verso il 1 maggio. Il 1 maggio che è una data che è un po', diciamo, finora è stata un po' morta, silente, ma soprattutto ha visto prendere parola, da come di consueto, da Piazza San Giovanni, sindacati che diciamo stanno facendo il bello e il cattivo tempo sulla testa dei lavoratori da ormai troppo tempo. Ebbene, in risposta, diciamo, a questa pantomima, si è deciso di praticare su tutti i territori un 1 maggio conflittuale che voglia attaccare il discorso, appunto, che voglia attaccare la legittimità di questi sindacati a pronunciarsi nella giornata che celebra i lavoratori, e che attacchi anche tutte le configurazioni attuali che sanciscono lo sfruttamento come unica possibilità di ripresa da questa crisi. Per esempio l'Expo 2015, che è abbastanza paradigmatico in questi termini, si avvale del lavoro volontario di 90.000 giovani e se ne vanta anche. Bene. Allora, Mattias, ciao. Ciao, buongiorno a tutti e tutte. Volevamo che ci dessi un po', appunto, un resoconto da quella che è stata l'assemblea di domenica, e che ci parli un po' anche, appunto, di come si articolerà a Roma questo calendario di lotta. E ti lascio la parola. Ok, allora, ma l'assemblea innanzitutto possiamo dire, insomma, siamo contenti di come è andata, del lato partecipativo che non si è sgonfiato, insomma, rispetto a quelle che erano le assemblee autunnali, cosa appunto non scontata, quindi sicuramente un segnale di grande voglia di proseguire, di continuare a incalzare, insomma, con la lotta contro l'austerity, con le riappropriazioni, e appunto ci si è già dato in calendario molto molto fitto, molto molto intenso, dettato, vabbè, un po' dalla nostra iniziativa, un po' dalla necessità anche di scendere in piazza su determinate tematiche, penso a quella dei migranti e della chiusura dei CIE, che è un'urgenza, insomma, importante per l'appunto il corteo di sabato 15 a Roma, sarà molto molto importante, insomma, c'è poi proprio una data a cui teniamo molto. Quindi poi nella discussione appunto andava a un orizzonte più ampio, andava fino a, insomma, all'estate, in cui ipoteticamente potrebbe essere stato spostato, anche se non è detto, il vertice sulla disoccupazione giovanile, ma appunto non è tanto quello il problema nel momento in cui un vertice infame e provocatorio del genere dovessero farlo, sicuramente i movimenti saranno pronti a contestarlo in qualsiasi città, però ecco, non ci lasciamo solo prendere dalla rincorsa in questo evento, anzi tutt'altro, appunto è già stato fissato questa giornata del 12 aprile di corteo nazionale appunto contro l'austerity, le politiche imposte da UE, Troika, eccetera, e appunto anche questo primo maggio dislocato in tutte le città, che però secondo me la grande importanza è appunto di segnalare i sindacati confederali senza ambiguità come una controparte, come un nemico, come qualcuno che sta partecipando attivamente all'intensificazione dello sfruttamento sul posto di lavoro. Quindi però tornando un po' indietro, appunto, volevo spendere due parole sul 22 febbraio e poi sul 15 marzo, quindi sulla tematica della repressione, molto velocemente. 22 febbraio ovviamente Roma, ma come tantissime altre città, raccoglie l'appello partito dai comitati della Valle. E a Roma è il 22 febbraio un giorno un po' particolare, perché è quello del tradizionale corteo ormai ultra trentennale per Valerio Verbano, per Valerio e Carla Verbano da qualche anno purtroppo, che però quest'anno appunto verrà caratterizzato proprio per raccogliere l'appello della Valle fortemente sul tema del TAV, delle grandi opere, delle risorse e soprattutto della solidarietà a chi sta subendo insomma una repressione diciamo terribile. Quindi tutti i processi, ma in particolar modo un accenno più chiaro alla vicenda di Nico, Claudio, Chiara e Mattia. Proprio per non insomma limitarsi a questo, nei giorni precedenti ci saranno altre iniziative. Giovedì 20 faremo un'assemblea pubblica, che però sarà un momento di agitazione, comunicazione grosso alla stazione Tiburtina, che è uno snodo dell'alta velocità romano, dove fra l'altro transitano nel pomeriggio decine di migliaia di persone, pendolari. Quindi insomma un momento non di discussione chiusa tra addetti ai lavori, ma anzi proprio una cosa molto pubblica che comunichi molto, appunto, i temi su cui parlare. Poi in un'occasione del genere sono moltissimi. E poi appunto sabato il corteo per Valerio Verbano con striscioni, bandiere, insomma, che sparli molto di TAV, e domenica un presidio a Rebibbia femminile, dove per l'appunto è stata trasferita da pochi giorni Chiara. Questo è un po' quello che faremo a Roma, speriamo che nel resto d'Italia appunto si raccolga in maniera forte comunque questa data. E poi per arrivare al 15 marzo, un corteo nazionale che costruiremo, poi ne riparleremo sicuramente, su questo, insomma, non solo sulla repressione, non schiacciato sulla repressione dei compagni e dei movimenti, ma un corteo che cerchi di affrontare il tema della legittimità delle lotte sociali, ma anche delle resistenze individuali all'austerità, pensiamo insomma all'extra legalità quotidiana di molte vite, e la legittimità quindi della resistenza allo sfruttamento contro le gabbie della legalità invece. Quindi questo sarà un po' il tema del convegno del 14 e del corteo del 15 marzo. Quindi grazie per averlo ricordato, perché io avevo scordato di dare questo appuntamento, che ricordo un po' in continuità con mi sembra appunto in continuità con il convegno fatto a dicembre a Bustamenno, esatto. Diritto alla resistenza, che anche si poneva nei confronti dell'attacco da parte della magistratura in questi termini, ovvero nella appunto non in difesa ma in attacco, rivendicando la legittimità del conflitto e portando fuori fortemente il discorso del fatto che diciamo questo tipo di risposte alla lotta in questo caso si danno nei confronti del movimento No TAV, ma sono poi paradigmatiche rispetto a come viene visto il conflitto sociale tout court. Sì, esattamente, quindi appunto avremo poi modo insomma di riparlarne, ma è un appuntamento a cui teniamo molto, insomma, proprio cioè, lo pensiamo anche come un passaggio che i movimenti, un movimento maturo e che si prepara insomma a nuove grandi ondate di mobilitazione, debba affrontare appunto con serietà, insomma, senza piangersi addosso, senza chiudersi in una lotta alla repressione appunto da addetti ai lavori, ma allo stesso tempo accollandosi le proprie responsabilità e rilanciando, insomma, senza ripiegarsi su se stesso di fronte alla repressione che c'è. Ovviamente sta andando oltre, perché alcuni processi come quello 15 ottobre, il maxi processo No TAV, vediamo un comportamento vergognoso nelle aule, e, insomma, una grossa stretta. Poi abbiamo reati appunto devastazione e saccheggio, terrorismo, insomma reati abominevoli rispetto a quelli che sono i fatti contestati. E quindi insomma un po' questo e un po' a continuare a rivendicarsi la legittimità di tutto quello che si fa, quella è la cosa centrale. Quindi però tornando un po' a noi, alle tematiche più generali, sì, è una primavera in cui si torna proprio a testa bassa a caricare proprio contro l'austerity, quindi però questo vuol dire anche un'altra cosa, non vuol dire solo scendere in piazza appunto bene, in realtà avere un orizzonte già pieno di impegni, che però non può, cioè appunto dobbiamo stare attenti questo a non dimenticare, ma sicuramente non succederà, insomma, quello che poi il livello delle lotte quotidiane, no? Che è quello che ci ha portato poi a, diciamo, a essere così forti, così, insomma, a fare una così bella mobilitazione il 19 ottobre e nelle settimane seguenti, ovvero quindi per quanto ci riguarda per la lotta per la casa, tornare nei territori, tornare nei quartieri, tornare alla riappropriazione, ma così come per tutti gli altri, insomma, tutti gli altri movimenti in lotta, ecco, non c'è solo la costruzione della piazza, ovviamente, insomma, tornare all'offensiva anche in questa primavera vuol dire tornarci a 360 gradi, perché è proprio quello che crea l'accumulazione che permette di riversarsi nelle piazze in numeri sempre maggiori, ma soprattutto con una qualità sempre maggiore, ecco. Quindi assolutamente non dimenticare la battaglia quotidiana, ognuno sul proprio terreno, per continuare a strappare pezzi di vita, reddito e anche, insomma, crescita e organizzazione dei movimenti stessi. Ecco, a questo proposito ricordiamo, oltre l'appuntamento del 15 febbraio a Bologna, quello del 1 e 2 marzo a Napoli. Esatto, proprio lì volevo arrivare. Ah, perfetto. Appunto un altro incontro nazionale della rete Abitare nella Crisi, e che si andrà proprio a riflettere su quali sono le pratiche messe in campo finora sui territori e su quali sono le possibilità di potenziamento e avanzamento di queste pratiche. Ti lascio la parola, perché appunto... Esattamente, due giorni importanti a Napoli, in cui appunto il tema centrale sarà un po' questo, quello degli sportelli, o quello che erano gli sportelli, sia dei movimenti di lotta per la casa o comunque qualsiasi tipo di appunto sportello aperto in un quartiere, o in una città di provincia, in un qualsiasi contesto, che possa trasformarsi in strumento di lotta a 360 gradi, insomma, non solo per affrontare le tematiche abitative, ma probabilmente appunto essere attivi, essere riconosciuti anche nei quartieri che viviamo come un luogo, come un punto di riferimento per chiunque, appunto per gli sfruttati e le sfruttate, se vogliamo, insomma, per comunque per chiunque abbia problemi arrivare a fine mese, non ce la faccia più a sopportare ulteriori tagli, ulteriori politiche di austerità, il punto di riferimento a questo punto sappiamo, abbiamo visto benissimo un po' essere alcun tipo di figura istituzionale, però certo ancora noi come movimenti non possiamo dire di essere il punto di riferimento immediato di tutti e tutte quelle che insomma stanno in queste condizioni, quindi uno strumento del genere, se diciamo utilizzato e vissuto in maniera appunto come discuteremo a Napoli, anche un discorso aperto a sviluppi di idee, di nuove forme appunto di interazione con i quartieri, con i territori, però lo sviluppo di questo strumento che vada dalla riappropriazione della casa a il tema delle utenze, le bollette. Abbiamo visto recentemente la nascita degli sportelli sociali, che da, diciamo, sportelli che prima si occupavano principalmente, diciamo, di resistenza agli sfratti, che allargano il proprio discorso anche a utenze, distacchi, morosità, perché diciamo nel portare avanti questo percorso anche di riappropriazione della casa, comunque ci si è resi conto, ed è uscita concreta dai territori, l'urgenza di occuparsi anche di situazioni che, diciamo, sono anche un attimo prima della perdita della casa, dello sfratto effettivo, ma che diciamo comunque relegano le persone in delle condizioni di vita indegne. Sì, esattamente, quindi appunto è un altro appuntamento importante questo primo 2 marzo a Napoli, anche perché appunto è una discussione che ha molta prospettiva, nel senso che proprio il lavoro, cioè se si va a definire meglio, a discutere il lavoro anche da fare nei prossimi mesi, anni, insomma è un discorso anche di medio a lungo prospettiva, questo di quali strumenti scegliere per, appunto, per diventare di fatto il punto di riferimento, molto più di quanto già in parte lo siamo e lo siano i movimenti in tutta Italia, per tutti coloro appunto che non ne possono più di questa situazione economica e allo stesso tempo non ne possono più, hanno benissimo capito che non sarà una lista elettorale o un'istituzione di turno a risolvere queste faccende. Quindi questo sta avvenendo, sta a noi però essere credibili, bravi, intelligenti a sviluppare tutti questi discorsi in maniera efficace. Va bene, Mattias, grazie mille. Grazie a voi. Ci sentiamo presto, ci si vede in tutte queste date sicuramente. Certamente. E vi auguriamo intanto vi auguriamo buona fortuna per tutte le scadenze romane. Grazie anche a voi. In corso della diretta è arrivato nel frattempo un sms al 346-667-3263 che ci chiedeva informazioni su uno degli ultimi pezzi che abbiamo passato. Il titolo è Whistle While You Work con Acero Moretti, e il pezzo appunto dell'EP che abbiamo presentato di MC Caserio si può trovare e ascoltare sul sito mccaserio.bandcamp.com. Un saluto anche all'ascoltatore che ci ha scritto. Réveillez-vous, c'est toute envie qui sont en jeu. Réveillez-vous, réveillez-vous. by grown in here, right? Rated M for mature. I'm saying, don't get me wrong, you know. Nigga love the kids, but this ain't no little kid rap right here. Folk have take two tokes and pass, invoke my own craft, grown up swag, whole other vocab. Yeah. Y'all one hit wonder, blowing smoke up they. See, even after your peak, you never measure me. Raw legendary status, rock him, every beat. Digging in some little kid like Pleasure P. Hip hop police might start come arresting me. This that 4-1 cake up, not Jacob. Boy, tie your shoelace up, get a shape up. You in the presence of hip hop royalty. Raw Anastasia, memoirs of a geisha. Specialty turning blood money in a pay stub. Type of pin game most rappers be afraid of. Some even call me the boom bap savior. New pledges beware, I might have to hate ya. This ain't no little kid rap here. This ain't no little kid rap here. This that getting off of work and you wanna bob your head. Not trying to do the jerk. How it work? They say I'm what the game been missing. Tell them rhymes do matter, but they ain't listening. Spend a whole lifetime fishing. Won't find another better on this right rhyme mission. This like a case of Final Destination. Reoccurring nightmare. Michael, Freddy, Jason. Code of the Da Vinci. Like pinch me. Drag them all to hell. 2012 go against me. I ain't even beat. Just doing my numbers. In and out the line. Like kind of something like jumper. Fight front your line or two. A haiku. Or the next rhyme I write might be about you. This ain't no little kid rap here. This ain't no little kid rap here. This ain't no abracadabra or chitter chatter. Foot soldier rising quiet. Not even a bit of batter. Gather your data, your P&Ls, I'll be in mail. Shattered with actors, even as even spell. I'm a rapper's rapper, make no haphazard. In a cipher, I'm Tariq Moses, that's the image of Mather. I ain't no little kid rapper. This ain't no little kid rap here. Dang, this that pinky in the brain. On the Gucci mane in the bricks, I got stains. They say I'm what the game been missing. Tell them rhymes do matter, but they ain't listening. No, for them. is on. I think I better let you know that I am okay. I'm just gonna put the band to the paper. Things gotta change up. I wanna sing, but I think I better hold up. We got me high, we got a new ride. Can't stop, won't stop, rockin' till I die. As I put the hip hop drops on ya, feel real. Soul singer, Rory Bass and Muhammad Dia. My name's Bahama D and came to chicken again. Get it done like me. I've been chose by G.O.T. to show the whole wide world of meaning up in C. Look, I be in love with a thing called hip hop. We go together like B-boys and shell tops. And it don't stop because it ain't quick. My whole intention is to build in the uplift. I be the ultimate microphone dipsis. Soloist with the Philadelphia accent. A living legend, baby, throw me on the track. I'm going to Bahama D. C09, eccoci di nuovo. Bene, dopo aver ascoltato Mattias che ci ha fatto un po' una panoramica su quali saranno le scadenze e quali saranno i discorsi che attraverseranno queste scadenze di lotta nella primavera, siamo in collegamento con Alessia. Ciao Alessia Di Legale. Ciao. E appunto andiamo un po' a entrare nelle questioni un po' più particolari di questa, del discorso che faremo questa primavera, e chiediamo un po' ad Alessia di darci una panoramica sul perché poi appunto si è espressa la necessità di fare un discorso centrato sul lavoro giovanile in particolare, non solo alla luce di questo vertice sulla disoccupazione giovanile che sembra quasi una provocazione, ma anche alla luce, diciamo, del panorama nazionale che vede proposte di dubbio gusto tipo Jobs Act, che promette posti di lavoro in 7 settori senza ben specificare come, piuttosto che un assegno universale per la disoccupazione che di fatto già esiste ma ha dei criteri veramente assurdi per accedervi. Ecco, troviamo anche esplicativa della direzione in cui vanno questi provvedimenti il commento della Fornero: avrei voluto fare io alcune delle proposte nel Jobs Act. Bene, Alessia, ti lascio la parola perché dall'Assemblea di Roma, diciamo, questa questione è uscita molto, molto forte e molto chiara. Bene, allora io credo che ci sono un po' di questioni di cui parlare, tra cui insomma quello che dicevi un po' tu, perché quest'autunno abbiamo parlato molto di austerity, di gestione delle risorse, abbiamo indicato comunque responsabili dell'austerity che viviamo o più che altro che ci hanno imposto. E io credo che sia stata un'espressione molto forte di questo, anche perché abbiamo poi riscontrato una partecipazione grossa sia alla manifestazione del 19 che poi insomma tutte le giornate che abbiamo costruito in seguito, e non solo a Roma ma anche in tutto il territorio nazionale. C'è inoltre però che un'altra questione che si solleva e che io penso che stanno attaccando fortemente appunto con queste nuove manovre, sia annunciando le prossime date o i prossimi impegni da parte dell'Italia nel parlare di disoccupazione giovanile, sia pensando a nuovi interventi, quindi a nuove modifiche sulla legislazione del lavoro. Penso appunto a quella di Renzi dopo le ultime che tu stessa citavi, come quella della Fornero. Quindi io penso che continueranno un po' a battere su questo tema e soprattutto a portare modifiche molto importanti che ci riguarderanno in prima persona, sia come giovani che stanno all'interno dell'università che come in generale come questi cosiddetti giovani, che una fascia d'età molto larga che va dai 15 ai 35 anni, che comunque vivono delle condizioni diverse ma abbastanza simili. Infatti penso che gli stessi universitari più volte ce lo siamo detto, non sono semplicemente studenti, diciamo che questa cosa non vale tanto più, questo riguarda anche la trasformazione dell'università. E penso infatti che appunto ci sarà un grosso attacco a quello che è già una condizione precaria che ci viviamo, come è stato detto più volte all'Assemblea, penso che l'Expo di Milano sia l'emblema un po' di questo, il fatto che offrono in realtà la possibilità di lavorare gratuitamente all'interno dell'Expo, spacciandoselo anche come una sorta di vittoria in qualche modo. E quindi noi dovremmo un po' riflettere su queste tematiche, credo che su la precarietà e sul lavoro in generale ne abbiamo parlato tanto, anche in passato se ne è parlato tanto più che abbiamo, però mi sembrava più un dibattito che diciamo analizzava un po' le cose senza però senza criticare nessuno ovviamente, diciamo capire che cosa le persone si vivono in prima persona e quale risposte un po' vogliono dare a questa condizione. Credo infatti che ci sia, ed è quello che in realtà ci raccontano sempre anche questi grossi legislatori o trasformatori insomma del lavoro, ci raccontano che, ed è ancora all'interno dell'immaginario collettivo, che il lavoro, cioè siamo rimasti ad una concezione del lavoro un po' diversa da quella che è la realtà, che comunque è quella appunto del lavoro garantito, del lavoro anche che in qualche modo è basato su una figura, è quella anche maschile e dell'uomo italiano, quando il lavoro comunque ha subito una trasformazione molto radicale, e quasi insomma ci raccontano che ancora questo modello lavorativo in qualche modo è qualcosa che prima o poi noi possiamo raggiungere. Prima di tutto io credo che possiamo dire che probabilmente non ci interessa magari raggiungere quel modello di lavoro là, perché comunque è sfruttamento. Il fatto che il lavoro sia cambiato, sia precario, sia flessibile non vuol dire che, e quindi le condizioni sono peggiorate, non vuol dire che quello di prima era meglio, insomma. E appunto ci raccontano questa cosa che prima o poi succederà. In realtà io credo che ci siano state delle trasformazioni così forti che poi non ci sia una tappa da raggiungere. Il lavoro precario non è qualcosa appunto di precario, che ha un tempo, un inizio, una fine, ma credo insomma che sia una condizione permanente. Forse dovremmo ragionare su questo, perché saremmo chiamati anche a intervenire su queste tematiche, dato che l'Italia si prepara a parlare di disoccupazione giovanile, si prepara a mettere nuove trasformazioni. E, mi sembra ecco, che ti interrompo solo un attimo perché sì. Appunto faccio volevo dire che il vertice è slittato anche in nome della presidenza semestrale che l'Italia andrà a coprire al Parlamento europeo e in nome di cui riceverà ingenti finanziamenti sotto diciamo la voce Youth Guarantee, quindi garanzie per la gioventù. Però appunto nello scenario nazionale, come dicevi tu, ci chiediamo un po' come questi provvedimenti possano incidere in una situazione in cui ancora il discorso che ci viene proposto sul lavoro non corrisponde minimamente a quella che poi è la realtà. Vediamo che il paradigma che possiamo aver ereditato magari dai nostri genitori, in cui la scelta un po' tra appunto lavoro garantito piuttosto che autonomo, ecco, per la nostra fascia d'età non esiste questa scelta, il lavoro è precario punto e non appunto non ha possibilità di altri sbocchi come tu dicevi. Sì, penso anche che a volte c'è una, in tutti questi fondi europei, quello che citavi tu, questo flusso di finanziamenti che arriva dall'Europa, le robe che ti raccontano insomma sull'imprenditoria femminile oppure l'imprenditoria giovanile, quindi insomma dei finanziamenti messi lì per non si sa per fare cose, probabilmente per cominciare per iniziare nuove piccole imprese, tutti questi finanziamenti mi sembra che facciano un po' a delle logiche un po' assistenzialiste, no? Siamo un soggetto debole che va aiutato in qualche maniera, però non c'è nessuna non si fa un discorso di, non si può fare un discorso di autodeterminazione in questo caso, anche sul lavoro, anche fuori dal lavoro. E io credo che questa logica un po' non può essere accettata in questa maniera. Leggevo ieri un articolo del Corriere della Sera veramente allucinante, oltre che diciamo offensivo, credo, che diceva che il problema dei giovani italiani che rimangono alla solita, no? La solita retorica, che rimangono troppo tempo a casa, e però il problema che si poneva il Corriere della Sera era il fatto che questi giovani arrivano tardi a prendere delle responsabilità, non il fatto che in qualche modo rimangono a casa perché non hanno la possibilità di accedere ad una casa, di avere una casa, di avere appunto una stabilità per vivere, non solo per sopravvivere. Diciamo, ecco, si rifaceva perché un po' al solco della retorica dei bamboccioni, in cui si esatto. Rimane a casa perché si è pigri e non perché non si hanno altre possibilità. Sì, ma la cosa ancora più allucinante era che proponeva un Erasmus un Erasmus della responsabilizzazione, ovvero degli stage ancora, dei tirocini in Europa, dove tu insomma vai lì, ti fai sfruttare un po' perché in Italia non c'è lavoro, quindi ti mandano, ti spediscono nei paesi più ricchi a fare questi Erasmus di responsabilizzazione. Quindi il Corriere della Sera ti consigliava esattamente l'immigrazione negli altri paesi europei. Guarda, quindi, ti interrompo solo un attimo perché sì. È molto attuale anche rispetto a diciamo l'Università di Torino in sé per sé, che sta spingendo molto tra le varie proposte di tirocinio, stage, che sappiamo siano parole per nascondere diciamo la sigla un po' più ampia di lavoro non pagato o comunque pagato sì. Ai limiti dello sfruttamento, appunto questi tirocini di traduzione per l'Unione Europea, in cui ti ti viene data questa borsa di studio di 300 euro per mantenerti in Lussemburgo. Sappiamo che Lussemburgo non è proprio il paese della il paese più economico del mondo, non si sa come tu ti possa mantenere questi in Lussemburgo per due mesi a 300 euro. Quindi appunto quello, l'esempio che facevi tu è più che mai concreto ed attuale, non è solo qualcosa di ventilato da giornali e da testate come il Corriere della Sera, ma di fatto è un progetto che già si muove nel concreto, perché già attraverso le università, attraverso i centri per l'impiego, questo tipo di scenario già esiste. Sì, esatto, ti propongono un po' la formazione permanente, che insomma, a pensarci, pure io ho pensato spesso di usufruire di queste borse, perché comunque ti danno la possibilità di andare in un altro paese, di magari perfezionare la propria lingua, di fare delle esperienze anche lavorative interessanti, solo che tutto questo avviene completamente a costo zero proprio per noi, che appunto ci proponiamo anche a partecipare a queste borse pensando che ci serva in qualche modo questa cosiddetta formazione permanente. Ma io credo che se dopo appunto 5 anni di liceo, 5 anni di università e altre formazioni permanenti, appunto arrivi a 35 anni con questa grossa mole insomma di curriculum, pagine e pagine di curriculum, borse di studio e stage, appunto tirocinio come dicevi tu, gratuiti, però non servono assolutamente niente. Forse quello che vogliono fare è far girare più manodopera possibile, anche diciamo qualificata, molto qualificata all'interno dell'Europa. Forse è questo l'obiettivo finale. In questi termini, certo, è forse interessante anche riflettere su questa nuova figura dell'apprendista, che diciamo rispetto a quello che dicevamo poc'anzi, ovvero il voler mantenere vivo uno scenario, un immaginario in cui il lavoro può essere garantito, può essere appunto il lavoro fisso, quella meta a cui arrivare, ecco, la figura dell'apprendista mi sembra che vada un po' introdotta dalla riforma Fornero, mi sembra che vada un po' in quella direzione, in cui ribadisce che comunque la condizione di sottoposto è temporanea. Sì, sì, assolutamente. Io vorrei dire che credo che la maggior parte di noi, un po' che anche sono usciti dall'università o che stanno ancora dentro l'università, hanno capito in qualche modo, e io ho cercato di fare in modo di pensare a questo, quindi interrogarci un po' su questa questione. Credo che anche prima, qualche anno fa, magari eravamo un po' pure noi stessi illusi in qualche modo che l'università potesse essere un trampolino di lancio per qualcos'altro. Credo che noi non eravamo così, cioè avevamo cominciato a dire appunto la crisi non la paghiamo, però non eravamo così consapevoli del fatto che fuori insomma dall'università ci fosse il nulla. Credo invece che in questo momento questa illusione che si aveva appunto anche di una spinta in qualche modo di riformatrice all'interno dell'onda, penso che questa cosa sia un po' tramontata. Rimane forse però in qualche modo il pensare che, perché questa è l'ideologia, no, che ci hanno trasmesso, il pensare che se non sei riuscita in qualche modo ad arrivare a quell'idea di lavoro di cui parlavamo prima, che passa a un iter, quello della formazione permanente, quindi di borse di studio in Europa, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a questo fantomatico lavoro garantito con un grosso stipendio, eccetera, eccetera. Comunque quello che hanno trasmesso negli anni è che è un problema di merito, che tu non sei stato in grado negli anni, nonostante ti sia data la possibilità attraverso questa formazione permanente, attraverso questo apprendistato, quindi attraverso dei momenti di costruzione appunto del tuo curriculum, della tua formazione è un problema tuo, è un problema di merito, che non sei stata abbastanza capace di stare al passo con queste con questi meccanismi, con questi dispositivi che ti propongono. Certo, lo vediamo per esempio i criteri, nel cambiamento dei criteri d'accesso alle borse di studio, che hanno adesso delle medie praticamente insostenibili, e la retorica che ha legittimato questo tipo di questo ulteriore taglio, questo ulteriore attacco al diritto allo studio, in Piemonte in particolare, è stata quella del ok, i soldi sono pochi, e già lì comunque sorgono dei dubbi, perché abbiamo visto tutti rimborsopoli, o come la vogliamo chiamare, insomma. I soldi sono pochi, andranno solo ai più meritevoli, quindi già appunto ancora nell'ambito della formazione, anche per guadagnarsi quella, la retorica è quella del passa solo chi se lo merita, quando poi quali siano le condizioni da cui ognuno parte, piuttosto che chi decide quali siano i criteri in base a cui si valuta il merito, sono punti completamente oscuri. Esattamente, esattamente. Infatti io credo che costruire una lotta all'interno delle università sul diritto allo studio in qualche modo, e quindi sul diritto agli alloggi universitari, alle mense, come ci siamo detti più volte, in qualche modo vada ad incidere su questo discorso, e forse dovremmo essere bravi noi anche a narrare, quindi a trovare un collegamento tra quello che succede dentro l'università e poi quello che succede dopo, perché è evidente che è direttamente collegato, probabilmente lo è sempre stato, però ci sono, insomma, c'è un filo unico che collega questi due ambiti, proprio per quello un po' che ci dicevamo prima. L'università non ha un inizio e una fine, la formazione non ha un inizio e una fine, perché non si tratta tanto di formazione, ma si tratta di lavoro sottopagato, piuttosto che gratuito, piuttosto che precario, appunto sotto forma di questi tirocini, stage, eccetera, eccetera. Ed è importante riuscire ancora una volta a rilanciare sulla riappropriazione degli alloggi universitari, sulla riappropriazione delle case, anche per chi non fa più l'università, ma sta ancora all'interno di questo di questo meccanismo qui, e probabilmente ci sarà per tanto tempo, perché rientra in quella fascia dei cosiddetti giovani, che l'università praticamente non la finiscono mai, che stanno all'interno di questo meccanismo di formazione unica, e lo stesso per tutti gli altri servizi. Credo appunto che ci parlare ancora di diritto allo studio e mettere in pratica la riappropriazione, cioè riappropriarsi di nuovo di quello che ci tolgono, e quindi sottrarre anche la nostra valutazione rispetto al merito. Cioè, noi dobbiamo, secondo me, uscire dalla logica che ci sentiamo valorizzati da questo, da una formazione permanente, valorizzati dall'università così com'è. Cioè, probabilmente la nostra, io ho trovato spesso e volentieri molto più appagante mettere in pratica quello, il mio sapere al servizio, diciamo, della nostra comunità, all'interno le case, all'interno dei nostri collettivi, che riuscire a sentirmi valorizzata invece da un'università che ti chiede appunto un tipo di formazione nozionistica, un tipo di formazione che va bene solo a loro e che comunque non ti valorizza. Uscire in qualche modo da quella logica lì, che ti senti valorizzata solo secondo quegli ambiti lì. In realtà quegli ambiti lì sono limitati, perché c'è un accesso differenziale, un accesso diverso che decidono loro. Quindi tu ti ritrovi magari dopo l'università a dire non sono stato abbastanza bravo, perché non rientro dentro quei meccanismi di valorizzazione del sapere che ti hanno imposto. E quindi io credo che riappropriarsi delle case, delle mense all'interno dell'università, dell'accesso anche ai libri gratuiti, che questa è una cosa anche molto importante, non solo ti dà la possibilità di continuare il tuo processo di formazione anche autonomo in qualche modo, ma ti slega da una valorizzazione che è quella accademica istituzionale, che è quella che ti dà più o meno l'accesso a un lavoro più o meno precario, e quindi io credo che sia un nodo fondamentale che dovremmo comunque approfondire, e penso che, come ci siamo detti anche all'assemblea di domenica, dobbiamo parlare appunto di queste tematiche, dobbiamo approfondirle nei prossimi mesi, fino ad arrivare a questo famoso vertice sulla disoccupazione che è stato chiamato, pare, per luglio, ma sembra insomma che tutta la presidenza dell'Italia all'Unione Europea parli un po' di disoccupazione giovanile, quindi credo che siamo chiamati un po' a prendere parola ad approfondire un po' queste tematiche, a rifletterci su. Va bene, Alessia, grazie mille, sei stata molto esaustiva e ti ringraziamo ancora per il collegamento e ci risentiamo presto. Grazie a voi, ciao. E nel frattempo è arrivato un sms qua in radio, immagino sarcastico, che scrive: a basso lavoro e scuola, viva Pinocchio, tra parentesi complimenti. Beh, immagino, cioè insomma, ad un ascolto minimamente attento della diretta era chiaro che ovviamente il messaggio non era assolutamente quello, quanto insomma incentrarsi più sulle forme di sfruttamento del lavoro odierno, in particolare di quelle giovanili, e tutte le questioni insomma connesse alla formazione. Quindi riceviamo e leggiamo questo messaggio, ma appunto non credo che il senso percepito della diretta fosse quello. Facciamo un breve stacco musicale, poi proviamo a fare un'ultima breve diretta nei minuti che ci restano a disposizione prima di lasciare i microfoni al GR. Trasmissione di persone a testa alta, Dio perdonali, sanno quel che fanno, fanno con quel che c'hanno e quel che c'hanno danno, scelgo tutti i giorni come meglio, sbaglio, ma poi comunque arrivo al dunque e me la regno, fiera di un carattere impossibile, di come vivere, di cosa scrivere, di dove spingere, lo so da me, generazioni di guerriere mi precedono, forte di una stirpe a testa bassa che ti scassa se ti pigliano, stronza come il minimo, se stai contro la rotta mo ti passa, ti distruggo, non ti passa, forse se ti sposti passo, forse passo uguale perché c'ho da fare, non ti cedo il posto, per il 9-8 corro su, e ancora un'altra cosa, ricorda, finché ce n'è, per me non sei di casa. A testa alta, sto in alto come se fossi sopra un'astronave. Non ce credi, vieni che te do le prove. Altro che prova del 9, qui si testa il tuo spessore. Sì, nel gioco duri una vita o molli dopo due ore. Tu, alza la testa e picchia forte. No, più forte fammi male. Tranquillo, sì che so incassare. So chi è la mia famiglia e me basta. Come fossimo niente in mezzo a sta gente. Mai a testa bassa. Chiaro, limpido, come le gocce che dal cielo cadono. Credo in me stesso anche quando gli altri smentiscono. Sono rallentame ma non me sblastano, sicuro che la testa non me la magnano. Tu sì massiccia sì te riesce, rompili prima che te rompano, usa tecniche ma esce per difenderti, io non arrenderti, il rispetto, il fuoco non lasciarlo spegnersi. A testa alta io vivo io, ti guardo e rido io, so chi sono io. A testa alta io vivo io, cammino io, se ti conto non discuto, io ti sfido, zio. A testa alta io vivo io, guarda il dito io, so chi sono io. A testa alta io vivo io, cammino io, se ti conto non ti scudo, io ti sfido. La base invece è storta e sporta, e della gente che gliene importa, di dati di ogni sorta, con la rabbia, senti darti ai nervi. Già lo sai che da cambiato non ti servi. Com'è che adesso vuoi farti business con gli scarti? Organizzati, parti, non pagatemi. La mossa è underground, e i gerarchi sei davanti. Il mio crew più rom sui palchi, procura i parti. Nice and easy, testa dura, i calabrisi. Quando idee ben chiare in testa, gli altri restano indecisi. Se la godono, comodo, ma poi non scattarti il cazzo a noi se non sai leggere il microfono. Sono vero che per il mio crew il crew non è il dinero, ma rappresentare il vero da guerriero. Invade le tue acque questa flotta. Io la niña, la pinta, la Santa Maria, ma zitto Seba e sei clamotta. Questo è il ritorno dei massicci nella casa. Per l'hip hop che pesa tonnellate, porta chiusa, voi che ci giocate. Visto uno come visti tutti quanti, letto uno come letti tutti quanti. Sulla base mossi quattro MC polmenti, per lasciare dei frammenti se davvero te la senti. Per non lasciare questa cosa grossa in mano a finti senza gusto, infettiamolo col nostro virus tutto questo posto. Stringo rime fra i denti, loro mi salvano, molti mi sfruttano. Mi chiedo quanti di loro veramente vedono, che loro si credono, ma non lo sappiamo. Lo facciamo, lo incarniamo, lo portiamo negli occhi a testa alta quando camminiamo giorno per giorno. Questo mi salva, questo mi eleva, questo risponde alla mia domanda, mi solleva dall'asfalto dove non c'è via. Un magnateste che magnateste in teste, ma non la mia. A testa alta io vivo io, ti guardo e rido io, so chi sono io. A testa alta io vivo io, cammino io, se ti incontro non mi scudo, io ti sfido, zio. A testa alta io vivo io. Allora 12:38, andiamo verso la chiusura di questa puntata di Parole Ribelli, procediamo con l'ultima diretta che avevamo annunciato in apertura. Siamo in collegamento con Lavinia da Bologna, che intanto salutiamo. Ciao Lavinia, ci senti? Ciao, ciao a tutti e tutte. Ecco, un saluto a te, con te vorremmo un po'... insomma approfondire il lavoro che avete fatto appunto a Bologna rispetto alla condizione abitativa degli studenti. Insomma, in questi mesi sicuramente la questione del diritto alla casa si è posta con forza all'attenzione di tutti, però è vero, anche vero che spesso riguarda soprattutto famiglie migranti, mentre la condizione degli studenti forse è rimasta un po' più sullo sfondo, anche se certamente esperienze sono nate, appunto penso agli studentati occupati che vedono ad esempio in Taksim un esempio a Bologna, però appunto una questione ancora un po' da indagare, se da un lato insomma gli studenti rappresentano un soggetto perfetto da spolpare, diciamo, nelle grandi città universitarie come possono essere Bologna, Torino, Roma, dall'altro spesso le risposte poi si limitano a tentare di riaccorciare il più possibile la permanenza in quella città per chi è fuori sede e insomma barcamenarsi poi tra vari lavori in nero e insomma tentativi di svoltare un po'. Voi avete appunto fatto un po' un'analisi sulla situazione bolognese a partire da un lato dalla questione del diritto allo studio, quindi da quella che è l'offerta dell'ente locale per il diritto allo studio, e dall'altra invece sulle condizioni degli alloggi che vengono affittati in città. Ti lascerei appunto la parola per spiegarci un po' meglio il vostro lavoro. Sì, appunto noi abbiamo fatto uscire questo documento e dopo comunque la settimana di, appunto, di lotta sulla casa che c'è stata dal 15 al 22 di gennaio, e dopo con questa settimana tra lotte, appunto, picchetti antisfratto e assemblea di riflessione su questo tema, appunto abbiamo fatto uscire questo documento per appunto comunicare alla città un po' quello che anche negli anni passati siamo riusciti a raccogliere attraverso inchieste gli studentati anche a livello cittadino nella nostra università, e poi le riflessioni che ci siamo fatti appunto da quando abbiamo occupato lo studentato Taksim il 15 di ottobre dell'anno scorso, e appunto queste riflessioni qua che vedono lo studente a Bologna, appunto come dicevi tu, un soggetto che viene sfruttato anche a livello proprio abitativo, sia in questa città appunto dai palazzinari, che poi vediamo che comunque a quanto pare sono in combutta anche con la gestione dell'università, perché un'università, quella di Bologna, che vede 40.000 studenti fuori sede al momento e offre soltanto 1.465 posti letto, vediamo che sicuramente non c'è un interesse da parte di, appunto dell'università a trovare una soluzione e a appunto dare la possibilità agli studenti fuori sede di poter abitare questa città senza dover pagare affitti esosi e rischiare anche di finire tra le mani di contratti in nero e sfruttamento appunto da parte di padroni di casa. Certo, tra l'altro poi sulla questione degli studenti, insomma dei posti letto offerti dall'università, che sono sempre meno, una questione insomma che abbiamo visto anche bene a Torino con tutti i tagli che si sono susseguiti, parlando insomma con alcuni degli studenti borsisti, quei pochi che ancora hanno insomma la possibilità di alloggiare in queste strutture, evidenziavano anche tutta una serie di sistemi di disciplinamento che vigono all'interno di quei posti, che quindi rappresentano in un certo senso anche un altro elemento su cui riflettere. No, infatti ne parliamo anche appunto nel documento, diciamo, di questa cosa, che vediamo che all'interno di questi studentati che vengono offerti non c'è la possibilità di portare amici e amiche, quindi comunque è una socialità che è controllata, e sono magari camere piccole, con poco spazio, e gli ambienti comuni sono insomma non sono molto magari ben illuminati, riscaldati, insomma si fa fatica comunque ad utilizzarli, e anche la possibilità comunque di vivere la camera come si vuole è un po' difficile, perché non si possono portare cose proprie, non si può allestire come si vuole. Queste cose qua sono sicuramente difficoltoso. Poi comunque qua a Bologna, non so se anche nelle altre città funziona così, accedere allo studentato comunque vuol dire prendere una borsa di studio che devi mantenere con criteri di merito, e allora quando non riuscisse a tenere i crediti che durante l'anno, i crediti che vengono richiesti, perdi la borsa di studio per l'anno successivo. E comunque devi ridare anche la borsa di studio che hai tenuto per l'anno precedente. Quindi è una forma comunque di debito, di scommessa su la propria formazione, che comunque diventa un ricatto sia appunto di disciplinamento, che costringe i ragazzi a dover comunque mantenere un ritmo estremamente serrato. E comunque sono soldi che poi tornano nelle tasche dell'università, come sappiamo bene. Certo, senti, un'ultima domanda, poi insomma purtroppo dobbiamo andare a chiudere. Voi a partire da questa prima inchiesta, che ovviamente rimane aperta, quali insomma progetti avete avviato sul territorio bolognese per provare insomma a costruire qualcosa a partire da queste crepe che si aprono nel sistema appunto del diritto allo studio, ma non solo? Noi comunque quando abbiamo occupato lo studentato l'abbiamo fatto perché comunque volevamo dare a livello cittadino un'indicazione su qual era la soluzione che gli studenti dovevano mettere in campo, ovvero una soluzione che non fosse individuale ma una soluzione collettiva di ripresa diretta del diritto allo studio. E adesso comunque dopo una serie di assemblee che noi chiamiamo le assemblee dei bisogni, che vengono partecipate da molti studenti che oltre al tema dell'abitare trattano anche ad esempio il tema della mensa universitaria, che è a Bologna la mensa più cara d'Italia, e su cui stiamo facendo un lavoro anche su questo, oppure anche sugli spazi degli studenti all'interno dell'università. Insomma, con queste serie di assemblee comunque abbiamo avuto una larga risposta e abbiamo aperto TACSIM comunque alla partecipazione anche di nuovi studenti che si vogliono interessare appunto a partecipare a questa lotta direttamente, mettersi in campo e a sostenerla e prendersi direttamente coloro di cui hanno bisogno. Va bene, Lavinia, noi ti ringraziamo molto per questa diretta, ci sarà sicuramente modo di riaggiornarci anche nelle prossime settimane, ti dobbiamo salutare per lasciare spazio alla prossima trasmissione, ti salutiamo e ti auguriamo una buona giornata. Grazie a voi. Ciao, a presto. Allora, anche per questa settimana Parole Ribelli si conclude qua, ci prepariamo a lasciare i microfoni al GR e poi a Cattivi Pensieri, buon ascolto sulle libere frequenze di Radio Blackout. Un saluto a tutti e a tutte da Francesca e Eddie.